un proprio problema, non è la tua carriera, non è un problema di oscilloscopio, è un problema di monitor che si è chiuso in quadro. Parlando anche con Massimiliano Archimede, no? E lui comunque sicuramente credo che sia in grado di controllare. Non ho nessuna esperienza su televisori, ed è proprio, c'è il trasformatore di linea e da riparte, gli sta succedendo qualcosa, qualche transistorino, qualcosa è partito, però senza schema così ci sono da fare dei controlli leggero, te togli, vedi, però ci vorrebbe un oscilloscopio, cioè metti la punta, controlli, se arriva, ragazzi, se non è oscilloscopio mi si è inchiodato, come faccio? Quindi lo devo riparare, perché mi era molto utile questo apparecchio. Questo è molto utile. Tu questo 440 che c'ho qui che è una cosa incredibile, proprio adesso c'è uno sopra l'altro, già si vede la differenza, che uno è proprio sembra uscita, l'altra no, è in ottime condizioni estetiche, è in buone condizioni, cioè non è che aggrada, non è alla radio, non ha qualche piccolo segno, sai, di usura che si crea nel tempo, ma comunque la radio è in buone condizioni, non posso dire che è nuova sembra uscendo dalla scatola, come può essere quella o questa 140, però è in buone condizioni estetiche, cioè è buona, cioè non, meglio della prima che avevo venduto, no? Meglio di quella che avevo dato via, che aveva problemi in FM, per il resto andava bene. E quindi no, questa va bene. Il problema grosso erano due schede, una era la CPU, la scheda della CPU, e l'altro era la scheda RF, che era da due, praticamente ne ho fatto due, perché ne ho trovato, ne avevo una anche nell'altra 440 di Massimiliano che mi ha dato, e da due ne ho fatto uno, perché una aveva problemi, infatti ho usato l'altra di quell'altra radio perché era meglio di questa, però invece da quella di questa radio ho preso qualche dio, qualche componentino, qualche bobina, qualche cosa, e ho riparato l'altra che non era mai stata toccata praticamente, e quindi l'unica cosa che non ha filtri, se mi capita di trovare qualche filtro a buon prezzo, perché se li trovi su internet li fanno pagare 70-80 euro l'uno questi filtri, no? E ne ha due dentro, cioè uno, almeno uno o due, alcuni ne hanno uno, alcuni due, comunque costa, non ne vale la pena, se lo trovo a 20-30 euro l'uno, magari che ne so 50-60-70 euro tutti e due li prendo, giusto per metterli dentro, là. Ah, vabbè, lì c'era Fabi, quando l'ho trovato la prima volta, allora se si poteva recuperare, che poi era voluto quel rilevatore, che si ricambia, sapete, che si riceve, guarda, ma la ritornata, capito? E poi fate tutto, prendete, la mettete a posto, esteticamente è buona, vedi, ti avviati il PC2 e ti vedi se te la messa a posto. E sono contento che funziona. Tutto bene, No, ma comunque per quello diciamo che i filtri vanno bene se lo usi proprio in maniera amatoriale, ma per come la devo usare io come ricevitore non è che me ne freghi assai mia alla fine, però se li trovo appunto e basta. Niente, mi ha detto do un'occhiata, se riesco a dare un'occhiata, perché qua ho detto quella radio che ti devo dare me l'hanno spedita l'altro giorno, quindi te la procuro, cioè te l'avevo detto, sì, te la posso di questa, te l'ho procurata e deve arrivare, ma ti dicevo, quella lì è proprio bella perché non è mai stata usata, è una radio in scatola, capito, proprio con il liceo, tutto quanto, l'ho vista in foto, mi ha mandato le foto e dovrebbe arrivare, pensa ai giorni, perché quando, poi guardo l'email quando me l'ha spedita, sono da Lussemburgo, capito, e quindi se non arriva quella vediamo, poi come arriva te la passo, dai. Non ti preoccupare, non fu di dire, quando arriva arriva, c'è una buona radio, non è un problema, tanto se poi c'è le connessioni da cambiare, decidiamo quale microfono mettere, magari l'altro, l'M500, si cambia le connessioni e si mette col microfono, capite? Si mette col microfono lì, non c'è problema, quando arriva non ti preoccupare, non fu di dire, c'è l'importante che il sistema può quella che la cosa. La cosa recitere con il primo se si fa, perché se vuoi, come riesci a girare la famiglia, infatti già ci sei riuscito, ma certo quante ore ci hai speso sopra. Troppe. Ma infatti sono giusto perché, per passare il tempo, se no non vale la pena, giustamente. La fortuna è che avevo l'altra, quindi ogni pezzo, se ricevevo un componente non dovevo stare lì a ordinarlo, perché ogni volta che ricevo un componente devi ordinarlo, aspettare 10 giorni che arrivi, 15 giorni perché poi in genere molti li trovi fuori dall'Italia, poi cambi quello, metti a posto quella parte, poi ce ne vuole un altro, invece così aprendo una lì ti serve il pezzo e lo prendevo, poi facevo le prove, quindi io... E questo mi ha fatto perdere molto tempo... questo offerto di accordatore che avevano invertito due fili dentro e sono uscito di testa perché aveva il segnale buono all'uscita della scheda RF, però credo che non usciva in antenna, quindi lì ho fatto un sacco di prove eccetera eccetera, alla fine ho perso un bel di tempo, però alla fine a mente fresca, lavoro, stavo ragionando, ho detto cazzo, ma sta a vedere che c'è qualche, perché l'accordatore non funzionava, ho detto che c'è qualche relinchiodato, qualche cosa che non fa passare, allora come sono andato ho aperto l'accordatore, ho detto adesso lo smonto, lo bypasso, no, tanto lo devo riparare, lo devo smontare, perché anche lui non funzionava, certo l'ho fatto a controllare, avevo invertito i fili delle schede, ho detto cazzo, l'ingresso con l'uscita, ho detto ma vaffanculo, allora una volta che è uscito l'ho lasciato aperto, mi piaceva smontato e l'ho riparato anche quello, all'inizio pensavo che era un integrato, poi la mattina sempre di notte, perché qui avevo fare a mente fredda, erano già le 2:30-3 del mattino e ho smontato l'integrato e ho detto questo è perché aveva le tensioni sbagliate, e poi pensandoci la mattina ho detto ma non è possibile, non gli arrivavano perché a mente fredda, sono andato a fare un controllo e ho trovato una bobina, ho cambiato la bobina, avevo messo l'integrato e ho ripreso a lavorare, era proprio successo un corto e aveva interrotto una bobina sull'alimentazione di una scheda, capito? Sì, tu avevi quell'altro pezzo di cambio, non hai fatto altro che sistemare praticamente quello che ti ho fatto io. Hai fatto bene. Sì, ma non si dà tutto a posto. stai mettendo a mettere a posto apparecchi di quelli. Buonasera, buonasera. Buonasera anche a lei, Domenico. Lei chi? Buonasera a tutta la ruota, a quelli che ascoltano anche. Lei chi? Sul 14. Sul 14, buonasera. Buonasera, ciao, Luca Parla Portatore, sembra mobile, ciao Alessio. Buonasera a tutta la ruota, ho girato adesso, ho sentito a voi due, non so che ci fosse ancora in ruota, scusando dell'ingresso così senza fare ascolto. Una buonasera e cordialità a tutti, 7351 qua, modulante Luca, rapportatore, sembra mobile. Avanti perché le mani calesti e fai girare, mi dai subito che c'è in ruota, grazie. Io, ciao Luca, c'è Fabrizio, io e poi non lo so perché sono entrato due minuti fa e ha fatto Domenico. Diciamo che c'è Claudio, eccetera, eccetera, forse anche Giuseppe, una cosa mi sembra di aver sentito così. La cordialità allora, cordialità a tutti, buona serata in questa giornata ancora di sole e caldo. Se ne voglio fermarsi di fare un po' questo caldo, dice invece a fine settimana ci sarà un'altra batosta dall'Africa, dai, il tempo suo è. Andiamo a mare, tutti al mare. Va bene. A mare ci vado sabato, gira, io domenica ci vediamo un pochettino. Questa settimana qua me la voglio volere un pochettino a incassare. Un po' di poi sabato gira, me ne devo scendere al mare. Adesso convinco a Giovanna, se vuole scendere anche lì. Forse la scesa Giovanna e si vola giù a Porta Mola. Adesso arrivano tutti e due come la costa qua. Ciao per il set. Oh, ya. Ciao Domenico, ciao anche a Luca. Mi ha chiamato adesso Nico, abbiamo fatto la prova ma non lo sento, non arriva col portatile. Come non arriva? Se io, quando l'ho provato di là si sentiva tranquillamente la cattiveria a bomba, ma no, non arriva. Faccio io l'ho andata, la sento, ma la città non arriva. Cosa vuol dire? Sentivo su l'antenna in acqua, non arriva. Basso, la scorci chiusa non arriva. Va bene, dal circo, quando devi uscire fuori dal circo dovresti sentirlo per forza. Vuoi un attimo in bianco per me che sto andando a mangiare. Ma al mio lavoro devi andare, Fabio. No, domani notte. Devi uscire fuori dal circo, infatti è già il carico quest'ora, era scarico, capito? Come cosa? Gliel'ho fatto mettere in carica. Va bene, noi ci andiamo con Giuseppe, già lo troviamo, ma adesso ho scontato tutto. Domi, dove sei? Qua, rotondina strana. Partendo, facciamo un silenzio stasera. Non c'è un filo di guerra, finalmente. Non intanto ci vuole, con la buonasera, signore, fratellino, come va? Tutto bene? Tutto bella, mamma, sempre subito dolorino alla spalla, al braccio, ma piano piano già sto passando, adesso mi sto già organizzando, e questo non è mio, la bella, non c'è un filo di vento, questo la bella mia fresca, la salita è sopra. Che lo so, 8:30, allora mai tardi. Sono messo di solito sopra, non avrei lanciato quei due cavi, non avrei preparati. La mattina c'è troppo caldo, non fa fare sopra, poi c'è il cartone che ha trattato. Questi ti si attaccano ai rivolti, ti si attaccano. Oh, Claudio! Scusando gli amici, l'ho dovuto staccare improvvisatamente, dai, se magari mi avete rilanciato un attimino, rimango con quelli lì, Claudia, riprendi tu e fai girare, grazie. Non c'è problema, siamo qua, quando vuoi, chiama pure, siamo qua. Avanti, purtroppo allora ci diamo un po'. Succede un bel caldo mio qua, ancora, non dico cosa dici. Vuoi aspettare di una mezz'oretta se vuoi salire, perché con caldo, con cattane così caldo, non sai come scivoli lì. Oi aia. Ci sono permesso, mi becco, tanto per lanciare il piede alla direttiva e spostare l'altro carro dei cementi sulla verticale, basta. Non lo farò altro, quindi lo posso fare anche domani mattina presto, se l'ho rotto. Salvo l'aggancio così a posto per il momento, poi più avanti si vedrà, non ho altre cose da fare. Non ho altre cose da fare per il momento. Ok, va bene. Domenico, che si venga alle 10. Chi è andata a male? Giovanna, come si chiama? Sì, Giovanna, Simona, Mirko e Alicia. Tutti e quattro. Antonello? Ehi, ya. Negativo, no, quella roba non piglia nulla, Da dentro o da fuori? Da dove hai chiamato? Dentro al circolo? E da dentro al circolo. Allora, prova a uscire fuori, piglia il passante e esci fuori, lo chiami da fuori un attimo, dai. Scappa, adesso provo, dai. Massimiliano, purtroppo se non tu mi hai sentito avanti domenico, purtroppo vabbè se arriva adesso e si mette fuori. Ciao Ale, buonasera. Yeah, buonasera anche a te. Me ne ha scucito. Domenico, dove sei? Fuori la bocca, sì. Domenico. Com'è? Che scappa, dimmi. Nulla, anche fuori, non prende. Perdito. Può essere, cazzo, non può essere. da 420, lui 425 deve andare 400, ecco perché. In realtà te l'ho messo 156-400, evidentemente l'avete toccato, se sei nel canale a fianco, se sei di produttore al radio, quindi vuol dire che riceve, c'è l'apparecchio, non c'è niente a un certo punto, se aveva avuto qualche problema l'apparecchio, ma così molto avrei sentito il produttore al radio lì, e poi lo piglia anche là dentro. Vabbè Nico, prova a parlare, io però non ti rispondo, ti rispondo qua, capito? Lì non posso parlare io. Invece lo puoi usare, c'è la barca. Prova a parlare che ti rispondo qua. Nico. Ma se ci mette lo senti tu, Nico. Sento che non riesci a ascoltare le frequenze. Da dove si spostano? Da la Loppolina si spostano, quella dove c'è la prima Maloppolina. Capito, non quella della parte dove c'è il pulsante della portante, dall'altra parte, con la monopolina di sopra è. Vabbè, domani mattina glielo fa vedere Claudio, là, quando sente. Lo controllo io, dai, già lo controllo io, non c'è di fretta, domani mattina lo controllo io. Senti, ecco 77, Antonio. 78 è. 78 è, ce l'ho anch'io, mi pare 78 è. No, io c'ho l'altro. Non so usare perché è una cosa, capito, nuova, figurati che io sono uscito di capo per poter utilizzare, e allora gli ho detto a mio cognato, ha detto a me tutto, gli ho detto che lo voglio usare come si deve, no, con due cose, non si capiva una fanculo, non si capiva, e ovviamente ha messo 4 watt, bisogna arrivare alla tastiera, là, e gli metti le funzioni, 5 watt e poi di mezzo watt. Comunque noi due abbiamo parlato l'altro giorno in 4 e qualcosa, già mi hai sentito, quindi. Sì, ma già funziona, è un ultimo VHF, quello va bene, la data va benissimo, già glielo controllo io ogni mattina e già facciamo funzionare. Ho tagliato tu, lo conosci meglio di me, esatto. Lo conosci anche la carina bene, io non lo conosco, la fretta, non ho mai usato quel modello lì. È un casino, è di un po' di tempo fa, capito? Comunque quella cosa poi non era assolutamente vera, non stavo misurando a lui. Meglio che sono contento, guarda, mi dispiaceva un bel a me, la verità, volevo andare oggi, la verità, a chiederglielo, ma non ho avuto tempo, se no sarei sceso, la verità, mi dispiaceva parecchio una cosa del genere, capito? Se per un altro, meglio così, sono contento per lui, va. Perché, cioè, mandare a noi mi dà un bel fastidio, a mandare agli altri, non a noi. Sicuramente stavamo misurando qualche radio, qualcosa, niente di particolare, tutto a posto, infatti meglio così. E cosa stavo dicendo? Chi c'è rimasto qua? Gianluca, ci sei ancora? Gianluca, ti sei lontano, dove sei? Meglio ti ascolto, non c'è problema, ti ascolto ancora magnificamente bene, oggi non c'è manco più il QRM. Ti ascolto, non ti preoccupare, adesso fa poco attacco Gilberto, così mi senti meglio anche a me. Tu, siamo molti, ma ti mangiato a te? Ma così dove è pompetta? Ehi, bombolino, e beh, c'è qui va, c'è Massimiliano, c'è anche Massimiliano. C'è anche lui, c'era. No, io non l'ho mangiato, figurati. Scusate, la vita a fare stanotte a cena, ma non è arrivato ancora nessuno, detto che li faccio. Se faccio adesso non ne mangia nessuno, freddi. Devi aspettare quando diventa la contessa. Perché non riesco a mettere la spiaggia, smantellando gli ombrelloni, cazzo, non ha convinti. No, sono andati verso le 4:30, amico, hai capito? Quando sono entrato io sono andati loro al mare. E dice, venteremo verso le 8:30, mi ha detto. Che sono scesi in tram, adesso salgono con mio cognato, e quindi stanotte c'ho uno o l'altro a dormire, c'ho due piste a dormire, uno o l'altro, a meno che non mi piglio il cane, buru. Allora vediamo un poco, buru. E già vabbè, dai, fai girare tu, Antonio, che io vado a mangiare un boccone, e poi sono nuovamente qua, ok? Yeah, man, yeah. fatto, ma sono 4 mesi e mi sono dormito da voi. E scappa. E infatti non sto usando il baraccino normale per quello, perché c'è un pochettino di propagazione, così che, hai capito, voglio usare questo che è un pochettino più forte. Cappa, già andrà bene. Domenico! Polino! Avanti! Aspetta Giuseppe che ce l'ha il Domenico. Dove sei finita la salita di dove? Ah, parlava che sei, già va bene allora, Avanti Giuseppe. Sì, ya. Popolino? Dimmi Giuseppe. Dove sei? Casa sono. A casa? Sì, ya, perché? Come mi senti, Popolino? Sì, come ti sento? Santiago sento Radio 5. Ah, già va bene, no? Già va bene, ma è saturo, no? Niente. Non è che me ne accorga molto io, Mi sembra normale, mi sembra. Cosa ne pensi, Pompo? Chiave 5 perfetta. Va bene. Pure a me mi sembra normalissima. Pesando quello piccolo. È grande. No, ho detto quello che mi hai fatto vedere a me, quello roba nuovo. Ega. Funziona bene. Funziona benissimo. Ma l'hai regolato su Pompo o no? L'hanno fatto così. Aspetta, mi dice Domenico che sta chiamando. Domenico. Invece se dice qua di Santiago 7, non lo so, anche meglio. Tu a me costa 2,95 qua. Questo baracchino è sordo a balla. E non dirlo a favola a me. C'ho l'apparecchio, ma non uso perché ci sento bene, capito? A me quando mi dicono, guarda Antonio, devi fare gli assegni, faccio più che devo sentire. Invece quando mi dicono, Antonio, devi ritirarli, la voglia che sento. Giallo, credo, giallo. Giuseppe, dove sei? Chiama Domenico, come si ti sente? Io sono zona negativa qua per Domenico, sono già a Torino, da Nico. Ah, ma allora non ti sente per quello? Cappa. Hola. Elettrosimo. Giubisciu, cucicu, cucicciu, cucicciu, cucicci. Giucucciu. Ma attaccato sì, Giuseppe. Cappa. Perfetto, perfetto. Via. Vedi, zona negativa, anche se qua c'ho le case, vedi come rende, cambio. Come si è chico? Via. Che stava provando quella questione là, Nico. Gli ho fatto vedere da dove si può cambiare le frequenze. Ho fatto mi racconto il bidone a bere. No, e tu niente. Vabbè. Ma dove è arrivato, Coso? Domenico. Non so, dove sei? Domenico. Prendo le gallerie in buca. Di sopra per trovare. Non scappa. Sì, a telefono. Sicuramente. Io riesco a sentirlo quando arriva verso le gallerie di verso muro. Riesci a arrivarmi. Guarda, io oggi, se sto attento, se arriva lui, lo sento sino al secondo di Arda, perché non c'è corrente. Scappa. Ma sta andando, sta? Sì, sta andando. Però ho capito, perché se era ritorno allora l'avrò sentito pure io. No, sta andando, tu sta andando. Allora, 9, negativo. Dove? Non c'è tutti. Se sei pulito già l'avrei sentito, tranquillo, al 100%. Neanche io mi sento più strano. Andava benissimo. Ho il telefono, mi ha abbassato la radio. No, se la prese, se ero stato su, anche andando per questa carta lì, penso di non avere problemi a sentirlo. Lì. Perché quella zona è abbastanza aperta. I nonchi purtroppo c'è tutti quanti vincoli. Io lo so, lo se fosse al quadrato c'è il termine 9, peggio si identico. Prova a staccare a vedere. Guarda. No, prova, attacca e stacca. Sì, attaccato. C'è quello di attaccato. Non so però che premuta a casa, me l'accordo. Mi sta arrivando la radio 5, 9:30 picchi positivi. Positivo, tempo può? 9:35, dai 5 a bomba. Positivo, non si può dire che tutto voce, non vuol dire tutto voce. Diocla, lascia mangiare, Diocla. Come la ciascia a mangiare? Noi mangiamo l'imbutto. Ah, perché al momento che siamo visti mi sembra che è un po' grassottello, è così, Diocla. Che non è grasso, è magro, anzi sta facendo la ginnastica ogni sera, si fa ogni giorno, ogni giro di ippodromo, ho detto, capito, ho detto va, metti ti fai gli scappi, fai un chilometro e mezzo di ippodromo, fai due giri e sei a posto. Quello sì, quello è bene, già fa bene, va, già fa bene, e che dire, va, è importante che sia tutto positivo, tu finisci giovedì al tuo lavoro e te la macchina lì. E giovedì finisco. L'altro giorno mi sono fatto il giro del podomo due volte col cannetto, cazzo, perché c'era questa ragazza qui con il coso, tutta vestita in rosso, con le... buona, ma veramente buona. Poi c'era un'altra che andava nella pinetta a fare il giro perché non ci andava dall'altra parte, dove non è macca, no? Perché ho visto a te, c'è quello sul bacchiello. Buongiorno, giovane. Ciao, Antu, mi hai ascoltato anche a te. Va bene, anche a te. Ci vogliono giovani, vogliono quelli lì. Tu sei già grande età, vogliono giovani che li faccia, come ti si dice? Divertire. A me scambetto, fare cadere. Poi Sandoccio da Papadauro, ben sentito da Buona Maria, Falchetto ti ha salutato, da buonasera. Ciao Falchetto, buonasera, appena scusciato dopo un bel po'. È la solita patacchina, dai. Hai capito, Oli? Quella a te punto vuoi rimettermi lo sgambetto. Oli, ci mancherebbe. Ma le vite, cioè ce ne sono 5-6 ce ne sono buone che fanno la mattina dalle 7 e mezzo fino alle 10 del mattino. C'è una che arriva fino alle 11 ma diventa rossa come coso. Cioè presente quando tu accendi il un pomolo uguale a quando ci facciamo a camminare. Eppure io divento rosso come il pomodoro. Passa, passa Antò, tu fai finta di nulla, capito? C'è una che c'è i pantaloncini russi, ma se la vedi, ma c'è un paio di pallavolti davanti, quando ballano sembra che sta ballando la samba. C'è molti russi, no? Maledetto, maniaco. Per quello che io vado lì, dice vai Antonio, per quello intanto alla baratera, io piano piano, c'è del tempo, fino alle 10:30. Fa gusto a Michele, se hai capito cosa ci vuole. Che come da cicco di lì c'è una ragazza buona, e c'è un giro di pelo che c'è, mamma mia, io lento. Tutte con quelle minigonne giocando a tennis, mamma mia. Come si piega non si vede tutto, va. E te ne sono sicuro. Tanto ci si vede tutto. Una cosa, guarda, rimane lì, ti viene pure di rimanere lì a guardare. Anche al tuo, anche. Parrato. Bisogna che qualche giorno mi faccia qualche diretto pure io. Tanto poi dice, fa, parla quando si piega io, no, mincia quella. Non si dice così, mencia, non si dice lì, mencia. Si dice applauso? No, vai e ce mencia. No, vabbè, siamo un pochettino educati, che siamo in orario un po'. Esatto. Facciamo suonare il flauto, hai capito? Il flauto, a meno, lo suona bene. Belle cose. Un tubo lo Sony quello, perché poco la sonora c'è, guarda da non toccare, rimane fermo il piffero, come fai? Stai col pantalone che l'ha tagliato, stai. Lo so, anche se... Allora, prima di tutto, si avvicina, quando uno si avvicina a una donna, no? È io ho visto il pantalone a faccia. Non bisogna essere così, bisogna essere la mattina, cioè, ridere, farla ridere, un pochino scherzare, cioè non essere per ragione, hai capito? Perché sennò chi sa, magari è chiuso, andrà da un vinicito. Scusate un attimo, mi ha riconosciuto. Io d'accordo, non c'è problema. Diciamo se Domenico c'è ancora. Domenico! Attento Domenico, se ascolti Urbia, fa chiamata, cambio. Sparito Domenico, bubu. Avanti Giuseppe. Cappa, ma c'è Sandro laboratorio, cioè. Sì, c'è Sandro. Attenzione Sandro, tigre, ma ascolti qua, la Sierra Sierra lì a Patatango, cambio. Catango ha detto. Sierra Sierra, Sassari, a Patatango, cambio. Quanto fa oggi tu? Truscia. Se no c'è la legna, non c'è problema. Devo passare il discutatore, facciamo il fuoco davanti alla casa e facciamo quello che dobbiamo fare. Una volta fate tutto, capito? E lì sta bene, basta limite farlo verso, andare verso quest'ora, diciamo lì, e fare una bella cena. Ma che ci abbiamo l'acqua, siamo a posto. Almeno la baci per bere, quello che è, poi la palla bere già si mette a limite dentro, dentro un freezer piccolino, già si busca un freezer. Infatti, quello non è un problema. Boh, per me non è un problema. Ma acqua non è niente, linea ce n'è, cos'è che manca, fammi capire. La linea della luce c'è, quello c'è. Il problema è l'acqua, prima l'acqua veniva distribuita tramite uno, c'erano i tubi là, capito? Che è fatto da una villetta, in pratica l'acqua di sorgente è quella. Distribuiva l'acqua dove eravamo noi, poi da noi vanno abbagliati per innaffiare, era un'acqua di sorgente, quindi in pratica l'estate rimane fredda e l'inverno rimane un bel caldo con l'acqua lì. Il discorso è che all'inizio ci dobbiamo arrangiare così provvisoriamente, capito? E poi di fronte a noi si deve attaccare a Cruginas, basta attaccare un tubo, perché c'è il tubo quello là del Cruginas, in via del produttore se a fai capire si chiama un incontro già. Io lo so, no, ma voglio capire, lasciate con la luce. C'è qualche arrivo di acqua lì da qualche parte dove io mi posso collegare, attaccare la linea? C'è la qualcuna, se c'è proprio il tubo, quello grande, quello grosso, nel Covina, se qui. C'è la centralina, c'è il coso. Non so, bisogna che lo faccio vedere. Ti faccio vedere dov'è. Proprio c'è il tubo di Covina, se lì. Attacca a quello c'è in pratica. C'è una sorgente che sale da sotto lì, perché lì quando hanno fatto il forzo per mettere quel tubo, hanno fatto il cemento rapido, perché se no non attaccava un cazzo, perché l'orientazione si è riempito un altro, c'è una falda d'acqua lì, c'è, capito? Quindi l'acqua sale su e distribuiva l'acqua dove c'è benissimo, infatti si lavavano le ruote una volta, adesso non so se lavano ancora, la verità, è passato parecchio tempo. Però volendo si può alimentare, c'è una di quelle pompe che posso comprare, gli attacco un tubo nero e vado direttamente con la villetta lì, attaccato a 220 e ci abbiamo l'acqua, capito? Qua perché cosa ti serve? Se deve cucinare carne. Per bene, la portiamo nei buchi di 4-5 casi a voglia che basta. Sì, una volta lavate, là, più che altro, l'acqua c'era comunque prima una volta, solo che poi è venuto un coso, come si dice, una piena grande, ha spaccato i tubi, hai capito, il discorso è quello lì. Solo l'acqua ce l'abbiamo, acqua proprio di fonte, sai, tu ci metti la birra dentro, dopo 10 minuti è fredda, e a temperatura proprio, guarda, che la puoi bere tranquillamente la birra, il vino non ti va di nulla a me. Cioè, come faccio vedere con la villetta? Ci passa l'acqua attaccata al muro, proprio, dove lui ha costruito, attaccata a questa falda. Pasco, ma bisogna passare su questo ponticello, hai detto, con la macchina? No, in macchina non ci può passare con un ponticello, ma matto sì, io devo fare io se devo fare. Il ponticello ci passiamo a piedi, non in macchina. La macchina è proprio a dove c'è il parcheggio di cose di benissi e basta, partiamo tutti lì, c'è la chiave, quando ci dobbiamo andare apro loro chiedono la sballa, le 8.8.4, facciamo l'altro e poi chiedono la sballa anche noi e poi noi siamo tranquilli, poi lo dobbiamo andare via, salutiamo la sballa e poi ce ne andiamo. La bagara, non si può fare, grattico, tutto quanto c'è. Tanto sì, già si procura, come non è problema. Quella che c'è giù buttato sarà ruginosa adesso, cosa la usa a fare? Già si prende una graticola, costa una cazzata, ho visto la becco, mi pare costano 10 euro, di quelle belle. Che ci può mettere la carne sopra, può girare, eccetera, eccetera. E ruginosa, ma tu non sai come si fa con la graticola, si mette sul fuoco, si fa scaldare, poi si passa la spatola d'acciaio e poi ci può cucinare tranquillamente. Ma perché anche che usavano la carta del giornale, la verità? No, quella lì dal caffè per togliere l'olio dell'altra roba che ci aveva cucinato. Prima si passa la spazzola d'acciaio per togliere tutte le incrostature e poi si passa il giornale. Non il giornale, la carta straccia, quella del pane. Ho capito, certo. Ma come sta uscendo? Ma non hai un controllo, per favore. Vai, dammelo tuo. Fammi dei segnali, sì. Ehi, a prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com'è? 9, 20. Aspetta, adesso stacco. Così quant'è? 9, 10. Già va bene, cazzo quando scalda la tavola, ci posso cucinare cazzo le uova sopra, vai a fanculo, cazzo. Allora, mi nomi è arrivata Giovanna, spera un attimino che apro la porta. Oh dai, Ali, dici a loro che io sto andando a prepararmi, di passare direttamente senza dirle nulla. Alle 9:30 io sono pronto, va. Ciao, qua siamo solo di mattina, non ho risposto per quello. Vai, vai, preparati, sta passando Giuseppe, bene. Ehi, ehi, va. Cappa. Fiacco un attimo, là, è arrivata la mattina di Giovanna, già rientro fra poco. Ehi, ehi, ehi. Ehi, accendiamo la macchina. Sandro, preparati. C'è il fuggito, hai girato la tua invita da notte. Problema, gli ho pittico lo stesso, ma cosa è tanto da gioia? Adesso già entra Giovanna, aspetta che sta salendo, ti faccio parlare con lui. Beh, Claudio. Dimmi, uomo lì. Va bene, Denise. Ma il dottore sta scendendo da Sandro. Fai bene, fai bene, dai. Certo, bisogna riuscire anch'io, Questa è l'ora migliore. Capito? È l'ora migliore. Ho un giretto. Mi sto mettendo. Intanto cosa fai? Sto sempre qua, buttato a casa. Adesso ci riusciamo. Dai ora. E poi ce ne rientriamo. Capito? Sarebbe piaciuto anche a me, ma no, non si può. E tu? Grosso, adesso ti andiamo piano, le cose già si mettono a posto. Gappa gappa. Non c'è Giuseppe, intanto sto facendo la scarpa. Deve essere già sotto, butto. Non so. Scappa. No, no, è che cosa domani devo andare a lavorare, così che no, non si può. Non si può. Vabbè, là. Vediamo. Sì, vabbè. Ma è che anche già devo lavorare. Quindi io. Anche se devo lavorare. Se dovevo lavorare, non tanto prima di mezzanotte, mezzanotte e mezza non mi occupo mai. Anche se sto qua, che magari sono in quel X, però mi accendo il computer e metto a fare qualcosa. Capito? Tutto qua. Va bene. Vai, ecco, ti saluto, ci sentiamo dalla macchina, al limite, ok? Sì, dai che poi quando ti avvicini qua mi sente sempre più forte. Arrivo, smetto a posto, ciao. Fa quello Smith. Non mi piace. Vai, vai. Vai, cazzo, non sta aspettando più. Appena c'è già. Cucù. Beh, avvisese. Ehi, ci sogno, ci sogno. Tu stai andando là. Cosa? Tu stai andando là. No, come faccio io? No, non mi devo andare a lavorare. Se vado di là, allora faccio come ieri notte, sono andato a mezzanotte, non ce la faccio. Devo fare 12 ore di lavoro. Sono andato a casa e divento fuso. No, va, vediamo se c'è Leoncino. Leoncino! No, non c'è ancora Leoncino. Ti chiamano però che stavo facendo cosa un attimo. Ma dai, vai, qua non c'è problema. ti sento. Pure io ti sento forte e chiaro. Ma che cosa sta accadendo, verà? Cosa sta accadendo, no? Che è tutto fumo, tutto fumo. No, che tu cosa minoretto? Sta accadendo, attaccato, verà. No, è attaccato, attaccato. Cappa, va bene, va veramente bene. Le ho fatto passare la radio stasera, capito? Perché era ciattolo. E allora lo tanto lo ho passato, gli è arrivato, e ciò va bene. Perché ho letto le istruzioni, l'ho visto pure io com'è. Ho letto le istruzioni e c'è scritto da 5 a 10 sicuramente è più per alta. Dove siete arrivati adesso? Stiamo uscendo dal Carbonazzi, capito? Oh Claudio! Capito mi hai, cambio! Yeah, ti ho detto, dove siete arrivati? Siamo qua in mezzo ai palazzi! Deve essere che è in zona negativa, in zona maledetta, Aspetta un attimo! Siamo proprio su immaginare, però è che canti di Kuroshiva, avrai! Dove siete arrivati? Qua dove c'è il comando dei vigili urbani, dai, dove c'è l'LD, via, dove c'è la torre? Via Cornaruzza, dove c'è la torre? Dove c'è il leader? Ho capito. Parevo CT. Tu ti senti abbastanza forte, aspetta, escemi. 6, 7, 8, 9, arrivi così, arrivi abbastanza bene. È positivo, fra un po' ti arriviamo ancora più forte, dai. Scappa. Ma difficoltà trovate a sentirmi, se non attacco la radio che pompa di più. No, ero mezzo imparati e ti sentivo lo stesso, capito? Ho visto, pure lì arrivo. Alla grande, non ci sta nessun problema. Ma con chi sta la macchina andate? No, andiamo con la macchina di Gianni, dai, è più comoda, andiamo con quella, poi con Ciuma di meno, che è a gas, capito? Ok. Ceres, scendi da lì, corri, corri però, vai. Aspetta un attimo, cara, che la faccio scendere. E me sta... sono sopra lungo sulla televisione, aspetta un attimino. Cava! Eccola qua, l'amore mio. Ma cosa stai facendo? Ma cosa vuoi fare? Di qualcosa. Non dici niente. Ma perché sei sempre così? Claudio, mi senti? Forte ghiaccio! Caffa! Mi stavo togliendo la gatta dal coso. Ogni tanto c'è avventura in certi posti. Così, ogni tanto si leva dentro qualche armadio. Un po' di così apre l'armadio onde pongo un baracchino. Se me la c'ha bucata. E me la c'ha un po' bucata e è andata parecchio, dimmi tu. Vabbè. E ci sono così purtroppo. Si mettono da tutte le parti, gaffa. Io non ripiazzo nelle rivolte. Italiata è fissata con le rivolte. Ah, così è. Ci hanno bene. Ma lo piace di ripetere di piazze. No, con le lacci si mette a giocare sicuramente. Mamma mia, e forse devo stare attento, no, una volta, sì che un po' di volte piglia, c'è capputteggia, giù gente, dopo quando li prende la cosa di giocare è terribile, un po' di volte tutti e due si rincorrono tutte quante le stanze, e sono andato a reddo, da poi viceversa, e sono andato a reddo la bicicletta, da poi bicicletta, e tua a e guarda, una cosa incredibile. Gaffa, già va bene, mi ascolti adesso? La voglia che ti ascolto, dove sei arrivato? Al via Rotto. Vabbè, siamo abbastanza forti adesso. sarà convocata. Oggettivo, oggettivo. Da qua. Ma un ponte se te parente, da... Con, come si chiama? Si chiama? Da... come si chiama? Qua, via Carducci, quello... l'amico di Coso, degli Oggi, non è per me la Giucci. E già la conto con la via, c'è una cliente, sole. Una cliente che succhia o no? No, una cliente. Che ha succhia? E che te ne gioco io? Ma non so che se succhia o succhia, no? E pure io lo dico un po' di volte, via Carducci, prima la fate, prima la Giucci. Allora, siamo qua sotto casa di Califo, quell'altro cadavere che è morto in Libia, che... E devate... Capo, da quel punto mi dovete sentire già abbastanza forte. Siamo qua, a 200 metri da casa di Doppio Rutte. Capo, sempre ove 20 sono, ho aumentato di brutto. Tutto a fondo scala, sì, adesso, cambio, stiamo andando a Patatango. Non ho detto che gli crepavo lo smizzare quando arrivavo in quelle coordinate. Mi senti come quando mi sentivi in via Pascoli adesso. A Patatango stiamo andando, Patatango. Sì, è stato compreso che c'è da andare a... poco fa ho fatto una papparetta. Giuseppe, che aveva delle papparette troppo dopo, l'ho preso. Attenzione, c'è il più russo. Dall'ultima esperienza.